Benvenuti e benvenute di nuovo a Slick Chick, puntata del 7 dicembre, rocambolesca oggi, un po' in ritardo, dovuto al problemi di parcheggio e traffico sotto la regia del Wombat, ma mi perdonerete questa fretta e furia, riuscirete a perdonarmi grazie a una scaletta e una puntata che secondo me vi piacerà. La scorsa settimana abbiamo parlato di cose più danzerecce e movimentate, abbiamo parlato di ballo e cose che si muovono. Invece oggi parliamo di cose un po' più tranquille, rilassate, volendo anche un po' cupe, ma non necessariamente, perché parliamo del mondo musicale che ruota intorno a Jim Jarmusch. Nei film di Jarmusch la musica ha un ruolo centrale, quindi non a caso ne parlo a Slick Chick. Diciamo che la musica ha pari dignità rispetto alle immagini, in qualche modo le completa, aiuta a farsi un quadro non solo visivo ma anche uditivo. Tant'è che spesso Jarmusch non si è accontentato di cercare le musiche in giro come fanno tanti altri registi o di farle comporre ad altri, ma le ha scritte e suonate lui stesso. Vedremo poi per bene e approfondiremo tutto quanto. Quello che sentiremo stasera, infatti, è un misto di musiche fatte oppure anche scelte in realtà da Jarmusch per i suoi film. Il primo pezzo che avete sentito era degli Skrull, dopo vi dirò bene chi sono questi Skrull e come mai ne parliamo oggi. E il pezzo si intitolava Funnel of Love, in realtà è un rifacimento di un storico e famoso pezzo di Wanda Jackson e rifatto appunto dagli Skrull in epoca parecchio più recente, nel 2013. Jim Jarmusch è nato a Akron, negli Stati Uniti, il 22 gennaio del 1953. Oltre ad essere un regista, è pure in realtà sceneggiatore, attore, produttore cinematografico, montatore e anche compositore. Come si intuisce, non so se l'avete mai visto, ma si intuisce abbastanza dalla sua strana faccia, nel suo sangue si mescolano varie origini geografiche, irlandesi, tedesche e ceche, oltre ovviamente al luogo di nascita che sono gli Stati Uniti, appunto. Jarmusch a 17 anni si trasferisce prima a Chicago per studiare giornalismo, poi a New York, alla Columbia University, dove studia letteratura. E infatti scriveva e ha scritto diverse cose, io non ho mai letto nulla, non credo che neanche abbia pubblicato niente, ma sappiate che scriveva un sacco. Tra i suoi viaggi e spostamenti, negli anni diversi in realtà, ci sono anche 9 mesi a Parigi nel 1973, che era un periodo interessante effettivamente per vivere a Parigi probabilmente. Lui si era recato a Parigi, ancora abbastanza pischello, diciamo, per una ricerca su André Breton e il surrealismo. Surrealismo che, almeno a mio parere, ha evidentemente lasciato il segno nella testa di Jarmusch, perché insomma basta vedere un film a caso dei suoi per riconoscerci qualcosa. A Parigi, inoltre, frequenta assiduamente la Cinémathèque française e il suo modo di scrivere inizia ad assumere, diciamo, tinte cinematografiche. Una volta tornato a New York, Jarmusch si laurea alla Columbia e lo stesso anno si iscrive alla Graduate Film School della New York University. Come tesi di laurea, Jim Jarmusch realizza, oggi sono un po' impappinata, quella che è la sua prima opera cinematografica, ovvero Permanent Vacation del 1980. What do you want to hear, kid? I don't care as long as it's vibrating, bugged out sound. Man, what a sound. Questo era il sassofono di John Lurie appunto nel film che vi dicevo prima, Permanent Vacation, un po' il primo film di Jim Jarmusch, appunto, del 1980. John Lurie lo vedremo poi, è un personaggio dei tanti che ricorrono nella filmografia di Jim Jarmusch, ha scritto diversa musica per i suoi film e ha anche recitato in alcuni di questi. Personaggio piuttosto interessante, se non lo conoscete vi consiglio di andarvi a vedere un po' di cosette sue. Ma torniamo a Jim Jarmusch. Nel suo periodo newyorkese degli anni 70 è parte della scena controculturale, chiamiamolo, alcuni preferiscono sottoculturale, ma insomma ci siamo capiti, che ruota intorno al CBGB's. I personaggi dei suoi film appartengono spesso a sottoculture musicali. Mi viene da pensare i Greasers, i rockabilly, i dark, i punk, ma ce n'è 2000. Gli hipsters, anche gli hipsters quelli di un tempo, non quel troiaio che c'è ora. E come vedremo, molti musicisti recitano o partecipano in qualche modo ai suoi film. In Permanent Vacation, ad esempio, il sax, appunto, era di John Lurie. E oltretutto, come vi anticipavo, John Lurie reciterà in Down by Law, ad esempio. Altre musiche che ha composto John Lurie erano Stranger Than Paradise, cioè le musiche per questo film, che è il secondo film di Jarmusch del 1984, che dà in qualche modo il via a quella che oggi viene considerata la cinematografia indipendente, cosa che in Italia ha un suono un po' strano, sia parlare di musica indipendente che di cinematografia indipendente suona un po' patinato e fighetto, ma in realtà in quel periodo in America, insomma, di patinato aveva ben poco e anzi era molto interessante. Anche qui, come in Permanent Vacation, si tratta di personaggi che si trascinano, diciamo, in paesaggi quasi dilatati, personaggi che annegano proprio nella noia, nell'immobilismo e i suoi paesi con loro, cioè i paesaggi insieme a loro. E i paesaggi sembrano in qualche modo assumere su di loro la vastità e la desolazione dei personaggi stessi. C'è un po' una simbiosi tra le due cose, tra gli esseri umani e i luoghi, che in qualche modo si completano e si assomigliano. E quindi ora vi faccio sentire un altro pezzo di John Lurie, che è tratto sempre da Permanent Vacation, sì, se non sbaglio, sì, dovrebbe essere sempre da Permanent Vacation, che si intitola Car Cleveland. It's a sad and beautiful world. Yeah, it's a sad and beautiful world, pal. That's a good one. Yeah. Buzz off, pal. Thank you. Buzz off to you, too. Buzz off. Is a sad and beautiful word. Buzz off. Good evening. Buzz off to everybody. Oh, thank you. Buzz off to you too. Oh, it's a pleasure. Thank you. Ooh. sail a beautiful world. It's a sail a beautiful world. It's a sail a beautiful world, yeah. It's a sail a beautiful world. It's a sail a beautiful world. E non è vero, non era il pezzo di John Lurie, non era tratto da Permanent Vacation, ma come i più attenti si saranno accorti, era in realtà tratto da Stranger Than Paradise, di cui appunto stavamo parlando peraltro, quindi era facile. Ma l'ultimo pezzetto invece che vi ho fatto sentire era Buzz Off, tratto da Down by Law, del 1986, un film con Tom Waits, che forse avrete riconosciuto canticchiare, John Lurie di nuovo e Roberto Benigni, grande amico di Jim Jarmusch. Un Benigni, diciamocelo, dei bei tempi andati, che purtroppo non ritornerà mai più e che tutti rimpiangiamo e adesso ci fa schifo. Anche qui in Down by Law ritorna l'atmosfera sospesa, questa volta quella di una prigione e poi dopo la prigione fuori in una surreale fuga. Il pezzo che vi faccio sentire adesso invece è sempre di Tom Waits, perché appunto Tom Waits ha collaborato a diversi film di Jim Jarmusch e non a caso, secondo me, perché al di là della persona che era, già basterebbe anche solo il timbro della sua voce per renderlo perfetto per le atmosfere di Jarmusch, dei film di Jarmusch. E quindi vi faccio sentire adesso Jockey Full of Bourbon di Tom Waits. Tom Waits, vi ricordo i Social Wombat o i Wombat Socievoli, ovvero quelli che hanno voglia di comunicare, con il sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, la pagina Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, la casella di posta, postawombat@insiberia.net. Vi ricordo anche che oltre a scriverci delle mail o commentare dove volete, potete commentare pure il nostro blog. So che ormai voi giovinastri usate solo Facebook, però in realtà c'è anche questo pratico modo di comunicare con noi, che è dirci le cose che pensate commentando i vari articoli del nostro sito con i podcast, eccetera. Sul sito, appunto, potete ascoltare tutti i vari nostri podcast e seguire l'evoluzione del nostro palinsesto che si sta, direi, velocemente ampliando. E comunque ne abbiamo in serbo ancora diverse nelle prossime settimane, quindi continuate a seguirci. Ma dopo Tom Waits e Down by Law e il rimpianto Benigni che fu, passiamo avanti e arriviamo a Mystery Train, un film del 1989. Siamo ancora abbastanza all'inizio della filmografia di Jane Jarmusch, ma insomma direi abbastanza, uno stile già abbastanza definito. Mystery Train narra delle storie intrecciate di vari personaggi che in qualche modo si ritrovano a Memphis. Una Memphis sovrastata, direi, dalla omnipresente figura di Elvis the King, ovviamente. E ad esempio ci sono una buffissima coppia di punk rockers giapponesi sulle orme dei loro miti che fuggono dal loro ristretto paesino giapponese, che assolutamente non mi ricordo come si chiama, sulle orme dei loro miti del rock and roll, appunto, come dicevo, però in realtà si ritrovano, cioè, in America, cioè, non veramente, cioè, nel senso, non nel loro paesino, però di fatto in un'America che lo ricorda molto, e quindi ritrovano un po' la piccolezza, la ristrettezza del loro piccolo villaggio da cui erano partiti, nella sconfinata desolazione di Memphis, il che è piuttosto bislacco, ma effettivamente ricorre spesso nei film di Jim Jarmusch. Oltre a loro ci sono anche due donne spaesate e confuse dagli eventi, di cui una tra l'altro è Nicoletta Braschi, due rapinatori per noia, due portieri d'albergo completamente fuori posto, e il cast effettivamente è piuttosto bello. Tra gli altri ci sono Joe Strummer, di cui si dice che Jim Jarmusch abbia cucito, su cui abbia cucito il ruolo, di, mi sembra si chiami proprio Joe, il protagonista. Poi c'è anche Steve Buscemi, Tom Waits, che in realtà non recita, ma fa il DJ radiofonico, in alcuni spezzoni. E poi c'è pure Screaming Jay Hawkins, che fa appunto un meraviglioso portiere d'albergo. E l'ha già citata Nicoletta Braschi, che fa una appunto delle due donne spaesate. Il riuscire a mettere insieme tutti questi personaggi iconici un po' è una caratteristica tipica di Jarmusch, che in realtà fuori dagli spropositati budget hollywoodiani, e i suoi film costano piuttosto poco, tutto sommato, in realtà riesce a convincere diversi attori e personaggi musicali non da poco. Chi recita nei suoi film evidentemente lo fa perché ci trova un significato e perché si sente forse parte di un qualcosa, boh, di bello, quantomeno. Ora vi faccio risentire di nuovo John Lurie, che avrete capito è abbastanza importante nella filmografia di Jim Jarmusch, con il tema principale di Thursday Night in Memphis, che poi è il titolo originale cioè l'altro titolo di Mystery Train di cui parlavamo adesso. E quindi sentitevelo un po'. Thank you. just won't let me sleep. Where can my baby be? Lord, where can she be? And all the days has began to get tough. Said I want you to come back, come back, come back, baby. A little pain in my heart just won't let me be. Wake up restless nights, Lord, and I can't even sleep. Love me, baby, till I get enough. Oh, pain in my heart, a little pain in my heart. Stop this little pain in my heart. Stop this little pain in my heart. Someone stop this pain. Questo era Otis Redding, l'avete riconosciuto, Pain in My Heart, sempre tratto da Mystery Train, dalla colonna musicale di questo film. Scorrendo ancora i film di Jim Jarmusch, arriviamo a Night on Earth, in italiano egregiamente, splendidamente tradotto con Tassisti di notte. E vabbè, ormai siamo abbastanza abituati alla fantasia dei traduttori di titoli in italiano. Tassisti di notte sono essenzialmente, l'avrete visto molti di voi suppongo, sono 5 episodi che ruotano intorno a dei taxi e quindi anche dei tassisti e ai loro passeggeri che vagano nelle loro rispettive città, Los Angeles, New York, Parigi, Roma e Helsinki. E invece nel 95, quindi poco dopo, esce un altro film, sempre di Jarmusch, che è Dead Man. Fortunatamente questa volta il titolo, grazie Dio, viene lasciato così anche in italiano. Dead Man è ambientato a fine 800, dove un giovane Johnny Depp interpreta William Blake, in omaggio palese e anche insomma, detto, esplicito, all'omonimo poeta, nel suo viaggio dentro le profondità dell'America e anche dentro se stesso. La colonna musicale viene composta appositamente da Neil Young e questo ne è il tema principale. Thank you. Oh, Questo era Tommy James and the Shondells con Crimson and Clover, tratto dalla colonna musica di Coffee and Cigarettes, perché infatti siamo già arrivati qui a Coffee and Cigarettes. Il progetto infatti di Jarmusch per questo film iniziò quando nel 1986, lontano 1986, i produttori del programma televisivo Saturday Night Live gli chiesero di creare un appunto cortometraggio per questo show. Il cortometraggio fu chiamato Coffee and Cigarettes per l'appunto ed era basato su poche inquadrature fisse, sull'uso del bianco e nero e su dialoghi comici, di una comicità amara, diciamo, sul tema del caffè. Da lì partì tutto. E diversi anni dopo, nel 2003 per l'appunto, Jarmusch ricompose tutto in un lungometraggio, non più cortometraggio ma un film vero e proprio, Coffee and Cigarettes, appunto. In Coffee and Cigarettes ritroviamo un po' tutti i miti e gli amici di Jarmusch, in gran parte musicisti tra l'altro, Benigni, Steve Buscemi, Tom Waits, ma anche Cate Blanchett, Jack e Meg White, Alfred Molina, Mike Hogan, i Wu-Tang Clan, di cui poi parleremo dopo, Bill Murray e Iggy Pop. E proprio di Iggy Pop è il prossimo pezzo che è tratto dalle musiche di questo film, di Coffee and Cigarettes, Iggy Pop con la sua versione di Louie Louie. And now the news. Just wanna sing Louie Louie Louie Louie. Lost. Turn on the news. It looks like a movie. It makes me wanna sing Louie Louie, Louie Louie. Tra l'altro, l'ultimo film di Jarmusch, uscito da pochissimo, è proprio un documentario su Iggy e gli Stooges. Io non l'ho ancora visto, ma lo aspetto con trepidazione, devo dire. Sapevo che lo stava girando, che no, cioè non è un mio amico Jarmusch, però comunque sapevo che stava per far uscire questo film, e devo dire che sto aspettando di vederlo, perché secondo me è un gran bel film e sono curiosa di vedere come vede Iggy Pop e gli Stooges Jarmusch. Ho citato prima i Wu-Tang Clan perché compaiono come attori in Coffee and Cigarettes, ma i Wu-Tang hanno anche curato per intero le musiche di un altro film di Jarmusch che si chiama Ghost Dog del 1995. C'è Forest Whitaker, lo riconoscerete, un attorone, nei panni del protagonista, che è un killer che vive nel New Jersey e segue la propria vita secondo i precetti del Bushido, ovvero il codice di comportamento dei samurai. Jarmusch entra quindi nel noir, diciamo, vero e proprio, e lo fa sapientemente, secondo me, usando una chiave importante, che è quella del rap. Yo, niggas is feeble, calm but violent like Ben Siegel. I'm anti-evil, plus I touch a desert eagle. My life's illegal, slaves and prisons are equal. The devil's lethal, he killed 100 million people. I'm Darkman, Iceman, La, Wu-Tang Clan, Trafficante, Sensei, Comprende, my Marine Corps, straight from the Trojan War. Black cape, crusader, trapdoor, flamethrower, stuck a chain store when I was dirt poor for my reward. Next week the Germans had me on the bulletin board. I beat that case, they couldn't identify my face. I'm triple darkness, silencer, I have to erase. Me and my Wu pirates start riots with Osiris. Mad, I'll fly it, kill you, but I'm quiet. Respect the habit, it's love I lost. Shine like a shooting star, sting with the cobra claw. What? Order. Order. Wu world order. Wu world order. Wu world order. Wu world order. World order. Yo, I enter through the cave of your ear in a high-pitched, silent tone only a door could hear, and impregnate you with the wisdom of the womb. Then your subconscious dreams come consciously true. Have you in such deep thought? Your pulse and blood pressure so low, you diagnose this corpse. Have an out-of-body experience, clear, no interference. Everything with physical form, lose appearance, become one with the formless. Now you feel your strongest, escape time realize you live for the longest. Love 1,000 years in a day, without opening your mouth, you say everything you wanted to say. Attracted to the core of the earth, I stay grounded. The sun in the center of this, I'm surrounded by planets in the mist that spins the wind chill. But my light melts your snowflake for 93 mil. All who have an ear, let them hear as we build. Cause one ear of corn can produce a cornfield, and one cornfield can produce the cornmeal. The bread from the body of Christ, all is filled with the truth of life inside your bone marrow. You can make it physical as large as your shadow. Whether space is cyber or optic is fiber, become a Wu multimedia subscriber. And hibernate the Wu tape in your mental state. Let it meditate, sit back then await the orders. For this you don't need no tape recorder. So let's prepare for the Wu world order. Wu world order. Wu world order. Wu world order. Wu world order. Wu world order. Wu world order. We coming soon and we striking at your borders. We'll be right back. appear. Words once so clear, only echoes passing through the night. Lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Erano i The Greenhorns and the Holy Go Lightly insieme con questo pezzo che si chiamava There Is a Hand, tratto dalla colonna musicale di Broken Flowers. Quello che invece sentivate prima, lanciato dopo aver parlato di Ghost Dog, era RSAA dei Wu-Tang Clan con WuWu Order version 1. Ci sarà anche una version 2 forse, chissà, non lo so. Le musiche di Broken Flowers, film del 2005, sono un bel mix di vari stili e generi in effetti. Si passa dalla classica al jazz etiope, al garage, al blues, ma che non manca mai nei film di Jarmusch, lo stoner e vari altri generi. Ad esempio ci sono di nuovo gli Holy Go Lively, che abbiamo già citato prima, perché in effetti erano insieme ai Greenhorns, e adesso però invece sono da soli, sempre per la colonna sonora di Broken Flowers, con questo pezzo che si intitola Devil Do. Thank you. Questo era Boris with Kurihara con Fuzzy Reactor, tratto da The Limits of Control. Abbiamo iniziato a entrare già con appunto le musiche di questo film, The Limits of Control, del 2009, nelle atmosfere che poi porteranno un po' di tempo dopo, nel 2013, a Only Lovers Left Alive, film di cui vi voglio in realtà parlare con calma, perché secondo me è proprio un gran film. E quindi ora vi faccio sentire un primo pezzetto, giusto per darvi un'anticipazione, e poi ne parliamo con calma. Thank you. E questo era un pezzo che si intitola Our Hearts Condemn Us. Lo strumento che sentivate era un liuto ed era suonato da Joseph, si dovrebbe dire Joseph Van Wissem, un liutista olandese che ha composto un sacco di bellissime cose. Si dice che Jarmusch era alla ricerca di musiche adatte per The Limits of Control, di cui parlavamo prima, e che non trovandole si decise a mettersi a comporle lui stesso. E quindi insieme a Shane Stonebeck, che suona l'organo e il carillon, e Carter Logan alla batteria e percussioni varie, mettono su un gruppo i Bad Rabbit, che in seguito diventano gli Skarl, con cui danno vita alla bellissima, secondo me, colonna musicale di Only Lovers Left Alive. E così ci riallacciamo anche al primo pezzo che vi ho fatto sentire, sempre degli Skarl. Però il primo pezzo era un rifacimento da Vanda Jackson, questo invece è proprio loro e si chiama The Taste of Blood. Thank you. Only Lovers Left Alive, in italiano solo gli amanti sopravvivono, fortunatamente è una traduzione letterale a sto giro, è la storia di due vampiri millenari che assistono al passare della storia e al decadimento del mondo. È un film dove secondo me ci si deve immergere con una certa fiducia, lasciandosi affascinare dalle malinconiche cose bellissime che ci fanno rimanere attaccati a questa terra, nonostante tutto lo schifo che ci circonda. Io almeno lo vedo così e così ascolto le musiche di questo film. E quindi dopo questo The Taste of Blood di Joseph Van Wissem insieme agli Skrull, vi faccio sentire quest'altro pezzo dei Black Rebel Motorcycle Club che si chiama Red Eyes and Tears. Siamo quasi alla fine, quindi sentitevi quest'ultimo pezzo. Yeah. prima di lasciarvi a Otto Hertz, vi faccio sentire l'ultimo pezzo, sempre tratto da Only Lovers Left Alive. Si capisce che sono un po' influenzata e che mi piace parecchio questo film. È un pezzo di una cantante libanese che si chiama Jasmine Hamdan. Jasmine Hamdan, prima di uscire solista, di pubblicare cose come solista, ha suonato per diverso tempo con un gruppo, secondo me piuttosto interessante, della scena indipendente, la scena musicale indipendente araba, che si chiamano i Soap Kills. Ve li riproporrò a breve perché secondo me sono proprio un gruppo bello. Non credo che facciano ancora cose, ma insomma quel poco che hanno fatto uscire secondo me meritava. E quindi vi lascio con Jasmine Hamdan e Beirut, da cui insomma si capisce che è un pezzo libanese, parla del Libano. E basta, ci risentiamo la prossima settimana, rimanete in ascolto di 8 Hertz e a mercoledì prossimo. Ciao ciao! شرب العرا لعب الورا خيل السبق سيد الحمام شرب العرا لعب الورا خيل السبق سيد الحمام رسم البرود لبس الغوار شم الهوى أكل شاغل عقول سكان بيروت بيروت زهرة من غير أغنى بيروت محلاها ومحلى زمنها ركب النحس ما في عمل ما في أمل برك الجمل ركب النحس تجار برود الغندرة والفنجرة والبورة كتر الفنجرة